tempo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Siamo qua. Ah sì, siamo qua e io l'ho detto in tutte le salse in questo Sabato il Villaggio. Abbiamo parlato molto di Stati Uniti e Sabato il Villaggio, ma che soprattutto parliamo di Stati Uniti, no, adesso. Allora, noi parliamo della scelta. Aspetta che sistemo la sedia e tu parla. Sì, allora noi oggi in diretta qui in questo sabato almeno a Milano uggioso parliamo della seconda scelta più importante per la cultura occidentale di queste ore. No, perché la prima è quella dell'allenatore dell'Inter, c'è il casting. Ah. La seconda scelta più importante per la cultura occidentale sarà al centro di questa puntata, tutta dedicata alle elezioni americane, perché manca poco. Poi ho detto prima, l'ho confessato agli ascoltatori, noi facciamo tutta la puntata sugli Stati Uniti adesso, perché magari sabato prossimo già non ne possono più gli ascoltatori di sentir parlare solo di Stati Uniti. E soprattutto perché il garante della par condicio americana ci lascia in pace, qui si può dire. Almeno su quello. Sì, per esempio, secondo te chi vince? Secondo me chi vince? Sai che... sul serio, dai, no, su serio. Io sono qua a aspettare. Sbilanciati. Non sono così, io sto studiando come una matta perché devo fare la notte elettorale. Io aspetto la sorpresa. Perché la siccome sorpresa. Devi fare la notte elettorale, tutto lo speciale, anch'io devo fare la notte elettorale. Sì, perché allora diciamolo agli 24. Ascoltatori. Io al primo piano insieme ad Alessio Maurizi per la diretta elettorale della radio, ma ci sarà anche la diretta elettorale del sito. Certo, e 24 quindi Daniele Bellasio, anche lui. Con i nostri corrispondenti che ubiqui, appunto, che vanno po' alla radio, un po' al sito. Dobbiamo tutti anche di notte. Decidere cosa portarci da mangiare da bere tutta notte. Esatto, sì. Invece, secondo me, sai che io mi sbilancio. Tu ti sbilanci su secondo Donald? Secondo me vince Hillary. Vince Hillary e secondo me tutto sommato anche facile. E perché hai visto Nat Silver, sai, 538, tu saluti, niente, qua in diretta. Non ma c'è saluto disciplina. Perché allora, sono arrivati due ospiti che... Sì, metto ordine, law and order. Dunque, Marta Cagnola, Di Bellasio, l'hashtag RadioTube. Sì. Raccontiamo di solito la televisione vista la radio passata per il web, invece oggi raccontiamo quello che in televisione... passato per il web e anche alla radio, abbiamo visto legato alle elezioni americane. Ah, te la sei cavata, eh? Sì, sono sì, non so se hai detto tutto giusto. Però era credibile, Da cosa vogliamo parlare? Dal tuo presidente preferito? Dal mio presidente preferito, sì. E soprattutto dici una cosa che in questo periodo ha di che essere seria. Cioè c'è un vero dibattito su questa cosa che lui dice, forse non capendo che... era una cosa... lui voleva fare una provocazione. Senti, sentiamolo. Senti. Di accettare questo impegno liberamente, senza alcuna riserva mentale o intenzione elusiva. Di accettare questo impegno liberamente, senza alcuna riserva mentale o intenzione elusiva. E di adempiere bene... Sono a un solo passo dalla presidenza e non un singolo voto è favorevole al mio nome. La democrazia è sopravvalutata. Dalla carica che mi accingo ad assumere, con l'aiuto di Dio. E di adempiere bene e fedelmente ai doveri previsti dalla carica che mi accingo ad assumere. Con l'aiuto di Dio. Congratulazioni, signor vicepresidente. Grazie. D'accordo, ora torniamo a governare il paese. La democrazia è sopravvalutata. Frank Underwood... la tocca piano? La tocca piano, però guarda che il dibattito sulla crisi della democrazia non è così campato per aria. E soprattutto... House of Cards, la tua serie preferita. Sì, una delle tue serie o la tua serie preferita. La mia... direi forse la mia preferita. E West Wing ovviamente resta là, l'altra faccia, ma dopo ne parliamo. Ci colleghiamo con New York, che perché meraviglia. Un nostro bravissimo collega e amico ha fatto un bel documentario che io essendo anche un po' amico, ho potuto vedere in anteprima. Ah, l'hai visto in anteprima, certo. Sì, che però va in onda lunedì sera. Cioè, allora, se voi volete sapere tutto, capire qual è la posta in gioco, vai Marta. Lunedì 7 novembre a partire dalle 21 su Focus Canale 56 USA 2016 dietro le quinte. Un'inchiesta inedita realizzata da Discovery con colui il quale è anche direttore di Le Quindi, giornalista del Sole 24 Ore, Christian Rocca. Buonasera Christian. Ciao. Buonasera. Eccolo qua. Allora, che aria si respira? Esatto. Com'è? Io sto facendo dei gesti che alla radio non si vedono, ma il saporino, il profumino in questo momento? Il prepartita, com'è? Ecco. Ma guarda, ovviamente può succedere di tutto, e questo è abbastanza chiaro. Può succedere che i sondaggi che in questi mesi hanno tartassato i nostri iPad, le nostre caselle delle poste, potrebbero essere sbagliati, e quindi stiamo parlando soltanto di numeri così tirati a caso. Ma siccome nel passato questi sondaggi non sono stati completamente sbagliati, e se si applicano un po' di cose che abbiamo applicato in altre precedenti elezioni presidenziali, io dico che Hillary vince abbastanza facilmente. Daniele poco fa ha citato Nate Silver, il quale fino alla settimana scorsa dava l'87% di probabilità di una vittoria di Hillary Clinton. Adesso è sceso intorno al 64%, se non ricordo male, percento di possibilità, comunque sempre abbastanza ampio, mentre il New York Times, che applica un altro modello statistico, dà una vittoria di Hillary intorno all'85-86% di probabilità. Quindi diciamo, se poi andiamo a guardare i sondaggi nazionali, ma soprattutto i sondaggi negli stati i cosiddetti in bilico, in quella decina di stati dove si deciderà l'elezione, Hillary è abbastanza messa bene, e soprattutto con il conteggio dello strano sistema elettorale, il collegio elettorale, eccetera eccetera, Trump dovrebbe praticamente vincere in tutti gli stati in bilico, dove nella gran parte è sostanzialmente sotto, quindi abbastanza improbabile. Abbiamo citato Nate Silver, che viene definito il guru dei sondaggi elettorali, insomma, quindi è uno che di solito prende. Anche se su Trump le primarie non tanto. Christian, nel tuo documentario torna abbastanza spesso il concetto della peggiore campagna elettorale della storia, e nel frattempo si dà un po' la colpa, alcuni degli intervistati da te danno un po' la colpa ai social network, la prima campagna elettorale in cui i social network hanno avuto questo ruolo così potente. Oggi sul Financial Times c'è un bellissimo e lungo articolo che definisce l'era del vetriolo, cioè che dice in sostanza la stessa cosa: sta succedendo che le campagne elettorali sono brutte, le democrazie entrano in crisi, i candidati non ci piacciono, anche perché i social network ci peggiorano. Secondo te è un'analisi giusta o no? È vero che in questa campagna elettorale i social network hanno contato abbastanza. Se tu ricordi, diciamo, nella prima campagna di Obama, lui ha usato i social network, il modello organizzativo del consenso a stile Facebook. Obama l'ha usato e in quel modo è riuscito, soprattutto alle primarie, a vincere, a battere Hillary Clinton, perché con quel sistema di mybarackobama.com, che era sostanzialmente Facebook applicato alla politica, era riuscito ad organizzare appunto consenso militanti in giro per gli Stati Uniti. Poi sono stati gli anni in cui attraverso i social network, per esempio, si sono date le notizie. Se vi ricordate, Obama diede la notizia che il suo candidato vicepresidente sarebbe stato Joe Biden, la diede via Twitter. E Twitter è soprattutto stato, diciamo, lo strumento di maggior circolazione delle informazioni. In questa campagna elettorale, caratterizzata dalle teorie della cospirazione, dalle bugie, dalle accuse più infamanti, eccetera, tutto ciò è, come dire, nei social è stato alimentato dai quelli che sono stati chiamati i troll di Donald Trump. Sono usciti vari articoli sul New York Times, sul New Yorker, su questo, e insomma è emersa quella che Hillary ha chiamato l'alternative right, una destra alternativa rispetto a quella dell'establishment conosciuta del Partito Repubblicano, che proprio sui social network ha trovato, diciamo, il campo abbastanza fertile per propagandare le proprie idee. Ragazzi, sono 17:15 minuti e 23 secondi, siccome precisa, siamo in diretta sulle 26:27 in questo momento a Radio 24, è il momento di dare brevemente la linea al traffico importantissimo il sabato pomeriggio, così facciamo entrare i nostri ospiti, teniamo ancora con noi per qualche minuto Christian Rocca, se puoi, ci ritroviamo tra poco per parlare ancora di questo argomento interessantissimo. Elezioni americane ci tengono compagnia in quest'ora di RadioTube. Traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Radio Tube. Stavi ballando Thriller? Non stavo ballando io. No. Farebbe meno notizia. Addirittura il presidente degli Stati Uniti con la moglie che ballano Thriller. Beh, ma ormai Barack già e Michelle manca. già ci mancano. Sembra che stiano così. Stiano un po' pazziando. Sì, sembrano un po' in vacanza. Divertendo moltissimo. No, guarda che ha lavorato Barack per. Peraltro si sta spendendo moltissimo. Però prima vorrei leggere un paio di messaggi che sono arrivati sia via WhatsApp che via SMS al 3492386666. Allora, via WhatsApp. Carlo da Latina che diceva: aspetta, l'ho perso, ho finito il tormento delle elezioni statunitensi, continuerà il tormento referendario nostrano. No, non si santa può. Pace non se ne esce. Carlo da Latina, non si può dire la parola referendum. Noi abbiamo talmente paura della par condicio che siamo così contenti di parlare di Stati Uniti. Ecco, quindi diciamo sì, no, forse. Ecco, a volte dipende, esatto. Compatibilmente, andiamo come oltre. Dice un mio amico, compatibilmente. Ciao Carlo da Latina comunque. Poi SMS 349-238-6666 e questa è una domanda che voglio fare subito a Christian Rocca e a Daniele Bellasio. Addirittura? E poi, sì, entrambi, e poi diamo anche il benvenuto ai nostri ospiti, perché ho parlato della maratona che faremo sia a Radio 24 che al Sole 24 Ore. Un bug irrisolto dei media odierni è stare tutta la notte a raccontare il voto, stare sulla notizia curiosando gli exit poll, sempre in meno ci credono davvero. Ma mo, è pure colpa dei giornalisti quando fanno i giornalisti, non ho capito più. Cioè, capisco, io starei a casa volentieri, lavorerei molto meno, tutto, però insomma mi sembra un servizio informare, non dobbiamo più fare le maratone. No, non lo so, è interessante la maratona elettorale. Cioè, Enrico Mentana l'ha costruito molto. Christian Rocca, cosa ne pensi? La maratona elettorale è ancora interessante? È troppa? Ah, guarda, io mi diverto come un pazzo, io mica lo faccio come un servizio civile al paese o alla comunità, io lo faccio perché mi diverto, le elezioni americane sono il più grande spettacolo dopo il Big Bang, o se non prima, e quindi io lo faccio maratona, lo faccio e mi diverto. Spero che ci sia anche qualcun altro, oltre a me, a Daniele, a te, a qualche altro, che si diverta lo stesso. Secondo me è una cosa... meravigliosa, ma è meraviglioso è tutto il processo, non tanto la maratona degli ultimi. Io farei una maratona lunga un anno e mezzo da quando è cominciato tutta questa cosa qui. Cioè, ma tu capisci che oggi, che ieri c'è stato un comizio con Beyoncé e Jay-Z, c'è stato Hillary Clinton, poi ce n'è stato un altro con John Bon Jovi e sempre Hillary Clinton. Oggi c'è Stevie Wonder e Hillary Clinton, e poi non mi ricordo chi è, Katy Perry. Domani c'è LeBron James che non canta. Vabbè, no, però possiamo andare a far noi una cantatina, Christian, per Trump, però, perché... esatto, appunto, Christian, però se assomiglia molta tenerezza, no, forse non appunto, è proprio la parola più adatta a questo punto, però Christian, se è apparso così quasi un film, un reality addirittura, è molto merito anche di Trump, uno dei tuoi merito, insomma, colpa, insomma, però è lui, uno dei tuoi intervistati, tra l'altro un personaggio anche televisivamente molto interessante, un ex avvocato di Trump, Richard Golub, spero di dirlo giusto, a un certo punto dice: Trump è un concetto, non è un essere umano. E secondo me è molto vero, nel senso che Trump non è nemmeno più individuato come una persona o un leader, non so, non saprei neanche come definirlo. Io prima di farti rispondere a questa domanda vorrei leggere anche un altro messaggio che arriva da un ascoltatore che fa capire un po' qual è l'aria. Ma avrete anche qualche ospite pro Trump o anche nella maratona lo sarete faccio tutti io, pro che Clinton? Devo fare? Lo faccio io. Io devo dire che non io sono con Gary Johnson, peraltro. Allora, i nostri ospiti si stanno rimpallando e tra poco ve li presento. Uno là, non vi dico chi ha fatto cenno alla l'altro che è pro Trump, non lo diciamo. Fanno fatica anche in America comunque a trovare. Ecco, io devo dire che io sto veramente aspettando. Però nel documentario di Christian ci sono davvero anche le ragioni per cui, anche per esempio raccontate da Roberto Saviano, per cui non va nemmeno sottovalutato questo concetto infatti, di Trump. Infatti, Christian, è difficile poi, perché in Italia abbiamo raccontato forse globalmente meglio Hillary. Beh, insomma, Hillary, diciamo che si è parlato quasi esclusivamente di Trump, però, nel senso che Hillary è una vecchia notizia, nel senso che la conosciamo ed è al centro del dibattito anche giornalistico italiano da 25 anni, quindi insomma, c'è pochino da raccontare se non gli scandali, le email, le cose che sono... Trump è stato il personaggio che ha dominato questa campagna elettorale. Se è vero che Hillary ha bisogno di Jay-Z, di Stevie Wonder, di Beyoncé, di Katy Perry, eccetera, Trump non ha bisogno di nessuno. È lui la star. Basta sì. Lui addirittura fa addirittura meno anche del suo vicepresidente. Quando va negli stati non invita i suoi comizi neanche i candidati al Senato o alla Camera, fa tutto lui. E quindi certamente è un personaggio da reality show. Però insomma la presidenza degli Stati Uniti è una cosa faccenda maledettamente seria e ci divertiamo noi con le serie TV un po' bizzarre e paradossali come quella che avete citato prima, ce ne sono anche altre nuove, però insomma quando poi si va alla storia vera, insomma meglio non avere un personaggio da reality show ma avere un politico capace, efficace, efficiente. Al di là delle posizioni ideali che possono piacere o meno, insomma Trump è abbastanza un punto di interrogativo e molto pericoloso sotto questo punto di vista, capire che cosa potrà fare una volta eletto presidente, se sarà eletto. Allora, tu poco fa, Christian, hai detto che ti occuperesti così anche solo per puro piacere di questi argomenti. E i nostri due ospiti in studio, davvero per puro piacere, per puro interesse nella materia, hanno messo in piedi un podcast. Noi li abbiamo già ospitati perché il podcast che hanno inventato è veramente, secondo me, uno degli esperimenti più belli di questo periodo. US Insider, loro sono Gianluca Di Tommaso e Davide Burani. Vi e do sono anche qui loro per difendere Trump, eccoli! Uno dei due sicuramente. Allora, @GDTom, @DiBurani83, così abbiamo capito che sono anche molto giovani. Ciao Davide e ciao Gianluca. Ciao a tutti, ciao non Marta. Non diciamo ciao, chi ha fatto, o lo diciamo chi ha fatto, ha indicato l'altro dicendo che ti fa ma Trump. Ma si sono indicati a vicenda. Ma c'è una motivazione. Vai sì. Gianluca. Più che altro perché Davide è molto scettico sui sondaggi. Ah, quindi cioè, ecco, cioè, ecco no, sbilanciatevi, Partiamo subito forte. Vai Davide. Vai, Davide. Allora, il tema che io vedo è che, esempio, in una settimana il sondaggio ABC Washington Post è passato da una Hillary avanti di 12 a un Trump avanti di 1. È un po' tanto. In una settimana. Ci però sono... è la settimana dell'FBI, Melgate, no, il recupero prima? Era già partito da prima. Il caso FBI non ha così impattato a livello di sondaggi. E Trump, lo hai citato prima tu e prima io e Gianluca lo stavamo commentando, Nate Silver ha ammesso di non averci capito nulla sulle primarie repubblicane in quanto Trump era considerato un clown, ne ha battuti 16. Sì. Ed è riuscito a portare a votare molte più persone, circa 2 milioni di elettori repubblicani in più, ed è stato il candidato repubblicano alle primarie che ha preso più voti di tutti nella storia del Partito Repubblicano. Vedi. Questi sono dati numerici. Non è che si stanno un po' cercando di parare le terga? No, però stanno dicendo delle cose. Hai ragione. Per paura di fare una brutta figura, allora, cioè che hanno corretto perché si sono spaventati. Scusate, aggiungo una cosa, un'ipotesi è quella di Marto, oppure io faccio il difensore di Trump per una volta. Non sarà che i democratici, attraverso la stampa che al 98% parteggia per i democratici, dicendo che c'è quasi la rimonta, chiamano tutti i democratici a votare, perché siccome Hillary non è che scaldi così tanti cuori, se dici che sono neck lì vicini, allora tutti i democratici, anche quelli dubbiosi, vanno poi alla fine a votare. C'è un po' di spin oppure c'è il pararsi le terga? Entrambe le cose, secondo me. Okay. Entrambe le cose, soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi che faceva Marta, era una cosa di cui parlavamo prima con Davide, cioè Ned Silver, che è quello in questo momento più cauto nella chance, come diceva prima Christian collegato, lui dà all'incirca il 64-65% di probabilità di vittoria di Hillary, e ha spiegato perché lui non crede a questa, dice che sono ancora troppo pochi i sondaggi che danno Trump in rimonta, e che quindi non la vede come, cioè la vede comunque come una tendenza importante che sta arrivando, e quindi ha riabbassato immediatamente le probabilità. In una settimana è passato dall'86% per Hillary al 64%, sono 20 punti di probabilità, ma per il suo modello fa tanto. Trump, secondo me, sono 10 giorni almeno che è comunque in risalita nei sondaggi, questo è in dubbio, soprattutto a prescindere dai quelli nazionali, di cui secondo me soprattutto in questa fase non bisogna nemmeno tenere in considerazione, ma negli stati, ma nei singoli stati, quelli decisivi. Di certo sono due le ipotesi: o i modelli dei sondaggi su cui si basano i sondaggi sono vecchi e quindi i campioni non rispondono a questa tornata elettorale che è completamente diversa da tutte le altre, oppure la risalita di Trump è vera, ma forse non farà in tempo, non arriverà in tempo a risalire abbastanza. Daniele, volevo chiamare in causa ancora Christian Rocca. Esatto, ci aiutate a capire qual è lo stato che noi dobbiamo, cioè qual è lo stato, la battaglia decisiva, il campo proprio dove si giocano la presidenza. Christian. Rocca da New York. Allora, intanto quello che hanno detto loro è verissimo, però è anche vero che gli ultimissimissimi sondaggi, quelli di oggi e di ieri, ridanno di nuovo in vantaggio abbastanza ampio Hillary. Lo stesso del Washington Post, ABC Washington Post, che è stato citato poco fa, riporta di nuovo Hillary avanti di 4, quello del New York Times da pure 4, insomma, diciamo sembra che quella crescita di Trump si sia leggermente fermata. Gli stati, bisogna guardare soprattutto la Florida, i soliti, la Florida, la North Carolina, l'Ohio, diciamo, partiamo da questi tre, che sono tra l'altro quelli che chiudono le urne quasi per primi, insomma alle 8 americane, alle 2 di notte italiane. Se uno di questi stati va a Hillary subito, perché lo assegnano subito a Hillary, praticamente la partita è chiusa. Poi bisogna aspettare tutti gli altri, fare tutti i conteggi, la costa ovest, tutto quello che sappiamo, ma sostanzialmente la partita è chiusa. Perché è proprio una questione aritmetica, non ce la farebbe, avrebbe una difficoltà enorme Trump ad arrivare a quota 270. Quindi io guarderei quelli lì. In realtà Hillary potrebbe anche vincere se perdendo questi stati, perdendo anche il Nevada, perdendo anche altri stati in bilico, perché la base di partenza che ha lei, gli stati che sono certamente nella colonna dei democratici, è abbastanza ampia da avere questo respiro tranquillo. Quindi insomma la sera, la notte, nella maratona, guardate Florida, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, New Hampshire, i primi degli stati in bilico della costa est. Grazie a Christian Rocca per essere stato con noi. Allora, buon lavoro, ma anche buon divertimento a questo punto, perché posso leggere un messaggio a favore di Trump, visto che ci accusano? Ah, guarda, che sennò... via WhatsApp ce ne sono tantissimi, io poi invece li leggo tutti. Non so se via WhatsApp, perché questa cosa del bravo conduttore non me l'hai ancora insegnata, se è WhatsApp quello o lì SMS. WhatsApp è qua. Ah, ok. Meglio i punti interrogativi come Trump che esclamativi come la Clinton. Non male, è una buona definizione. Allora, stati, battaglie, no c'è prima Trassi. La pausa, no? No, c'è la pausa, 17:29:57. Salutiamo Christian Rocca. Ciao, grazie Christian. Ciao a tutti. Allora, salutiamo Christian Rocca, facciamo diamo una pausa e poi ritroviamo con i nostri ospiti Davide e Gianluca il tema delle elezioni americane, e ci sono un sacco di messaggi. Sì, di ma interessa, voglio... vedi? Piace, interessa. Piace. Ci ritroviamo maratona. Tra poco. Ciao. YouTube. The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. I don't have people speaking in my ear and telling me like, oh, you shouldn't say this, you shouldn't say that. All of these different people. I don't have lobbyists with me. I know the lobbyists. I mean, I've used the lobbyists. I mean, I've done very well with lobbyists. But believe me, they control your candidates. And special interests, they control your candidates. But I've turned down millions and millions of dollars. I feel foolish actually doing it. You want to know the truth? I said, no, I don't want your $5 million. No, don't give me $2 million. I go back to, you know, it's just not my way of life. I always was like, hey, I have to say this. I was very greedy. Now I'm going to be greedy for the country. We have to take in money. Greedy for the country. I am greedy. Sono avido, ma adesso sono avido per il paese. E poi soprattutto io potrei mettermi a sparare sulla quinta strada. E non perderei un voto. Capito? E questo è Donald Trump. Cioè, allora, fammi vai, dire chi abbiamo ancora in studio. Davide tutto. Burani e Gianluca Di Tommaso sono ancora con noi. Allora, durante la pausa, cari ascoltatori, vi siete persi il momento del dibattito del nostro dibattito. Riaccendiamolo. Allora, il politically correct. Allora, vi leggo un po' di messaggi. Allora, WhatsApp 349-238-6666. Non capisco perché si parla di Trump come il male assoluto, il rischio di evitare un problema per la democrazia. Se gli americani lo votano vanno comunque rispettati. È la certo. democrazia non certo. vince, ma se vince. Salve, non capisco come mai tutti si scandalizzano per Trump. Vi ricordate Reagan? Un attore, poi grandissimo presidente. Ecco. No, ecco. A parte che aveva fatto anche il governatore, no? Beh, peraltro, allora, tanti ascoltatori dicono: voi difendete Hillary Clinton, cioè noi non adesso capite Trump. Non capite Trump. Ecco. Aiutate Davide, a capire Gianluca. Trump. Questa voi che roba vi siete qua occupati che... nel vostro podcast US Insider di spiegare agli italiani che vi hanno ascoltato che cosa rappresenta Hillary Clinton e che cosa rappresenta Donald Trump? Perché noi in questi mesi abbiamo sempre cercato di analizzare Trump attraverso uno schema mentale che non è quello dei democratici contro repubblicani, è un'altra cosa che è successa, Davide. Lo schema, il paradigma di queste elezioni è establishment Hillary Clinton e anti-establishment Donald Trump. Come si spiega l'increase di Donald Trump, anche la sua capacità di attrarre voto? Inizialmente io e Gianluca, quando eravamo partiti col podcast, non lo vedevamo come un serissimo candidato alla presidenza. Poi, seguendo, ci siamo resi conto come Donald Trump riuscisse a catturare il voto di quel ceto medio prevalentemente bianco che percepisce di essersi impoverito, che non si sente parte della crescita dell'economia americana, quindi si sente escluso, e che vede in Donald Trump il grimaldello utile a rompere ciò che è oggi Washington per loro. Cioè, posso dire quella parola lì? La quale? Posso dire? Berlusconi? Cioè, devi dirla. La posso è giusto dire? Che tu la dica. Berlusconi? Solo e soltanto in quell'aspetto. Cioè? Ok. Solo e soltanto nell'aspetto di una persona che comunque fa parte dell'establishment finanziario, imprenditoriale degli Stati Uniti, senza alcun dubbio, ma che non è percepito come tale. È percepito, si è posizionato come invece una persona vicina alla gente e soprattutto come l'unico che potrebbe far tornare ad essere grande gli Stati Uniti. Il suo slogan infatti è Make America Great Again. Quindi insomma mi sembra qualcosa che noi abbiamo vissuto 20 anni fa. Esattamente. Solo e soltanto fa. Sotto questo punto di vista il posizionamento, quello è un classico posizionamento politico del candidato, è molto molto molto molto simile. Sul resto vedo moltissime differenze. Per esempio? Anche nel linguaggio. Nel linguaggio, nonostante la semplificazione del linguaggio sia stata una caratteristica fondamentale di Berlusconi, nell'elettorato Berlusconi aveva un elettorato molto diverso. Gli imprenditori a questo giro non stanno molto con Trump. Ok. Nell'Italia cioè di Berlusconi gli imprenditori sono stati... Lui fa parte dell'establishment finanziario americano, ma non è detto. No. Secondo me no, l'elettore medio di Trump, posto che il voto è segreto, l'elettore simbolo di Trump è, come diceva Davide, ceto medio bianco, ceto medio basso, quindi comunque tendenzialmente povero, che percepisce di essersi impoverito, istruzione molto bassa, medio bassa, piuttosto bassa, e soprattutto questa sarà una caratteristica fondamentale, tornando al discorso di prima degli stati. Trump ha molta presa nelle zone rurali degli Stati Uniti e nelle piccole città americane. Aspetti fondamentali che molto spesso vengono sottovalutati anche nei sondaggi. In questi posti che tu dicevi e in quei ceti che tu citavi ci arriva Trump forse per due cose che forse dovremmo citare. Uno, che va contro il politically correct, no? Lo dice in maniera io sono, posso sparare, sono avia. E l'altro grande tema è l'immigrazione, che per la, forse per la prima volta è diventato, penso io, magari voi mi correggete, centrale nella campagna elettorale. Uno dei primi due temi in assoluto, cioè economia e immigrazione, senza alcun dubbio. Una cosa che secondo me è mancata in assoluto in questa campagna elettorale, per esempio, la politica estera. Sì, sì. Totalmente assente, perché Trump ha, come lo dice nell'economia, protezionismo puro nell'economia, lo dice anche verso la politica estera. Cioè isolazionismo puro, se non con una buona relazione con Putin. Punto. Ok, sì. E su quello, e su quello sarebbe da aprire, e fare un'altra puntata. Correct, Davide? Cioè, interpreta lo spirito del tempo, Non solo in America, peraltro. No, assolutamente, nel senso che è un effetto che stiamo vivendo, ma anche in Italia, nel senso che lo stesso Renzi, i grillini sono populisti con diverse sfaccettature, certo, con diverse sfumature, ma lo sono. Perché oggi il populismo è connaturato all'idea di politica moderna. Perché Trump non si accompagna ai senatori e ai deputati del Partito Repubblicano? Beh, intanto perché loro non vogliono. No, molti di loro non vogliono. Beh, se si guarda... Però comunque, certo, anche a lui fa comodo. Certo. Nel corso degli ultimi giorni, al flip-flop di lo appoggio o non lo appoggio, sì, certo, chi ha fatto la figura del ridicolo non è stato Trump. No, sono, esatto, stati i deputati che prima lo appoggiano, poi non lo appoggio più, poi lo riappoggio. Per cui oggi... No, anche perché ricordiamo che c'è in ballo gran parte del Senato. Allora, della ce ne sono in ballo l'intera, esatto, Camera dei rappresentanti, ben 435, esatto, seggi e ben 34 seggi dei 100 senatori. E soprattutto sul Senato è una partita decisiva, importantissima, perché il Senato dovrà approvare, dovrà nominare il prossimo giudice della Corte, esatto, Suprema. È proprio il tema del vostro ultimo podcast che io mi sono ascoltata questa mattina. Il giudice Scalia, che era l'ago della bilancia della Corte Suprema, deve essere sostituito perché è mancato, e quindi bisogna decidere il giudice della Corte Suprema che deciderà. Quindi non è che conta solo il Presidente degli Stati Uniti, conta tanto, però c'è anche qualcos'altro in ballo. In questo momento i repubblicani hanno la maggioranza al Senato e hanno bloccato la nomina del giudice candidato da Obama. E non hanno nemmeno preso in considerazione l'ipotesi di votarlo, non sono nemmeno arrivati al voto. Questo significa che se i democratici non recuperano la maggioranza al Senato, si troveranno nella stessa situazione, anzi dovranno prendere un giudice conservatore. In questo momento la Corte Suprema è composta da 8 giudici, sono 4 conservatori, sì, e 4 progressisti. Quindi quello che sarà nominato sarà quello più importante per una serie, per tutte le prossime sentenze di tutta la prossima legislatura. Se Trump vince, quasi nessuno sa che tipo di presidente sarà. Ma se perde, secondo voi che cosa fa? Accetta, dice va bene, ho fatto la gara, torno a fare l'imprenditore, oppure spacca il partito, ne fonda un altro, fa una televisione, continua. Che fa? Posso dirti che, Davide, se Trump perde, che cosa faccia lui conta poco. Il problema è che Trump ha reso evidente la completa distruzione di come eravamo immaginati a pensare il Partito Repubblicano. Cioè oggi il Partito Repubblicano è l'unico perdente sicuro di queste elezioni, sia che Trump vinca, sia che Trump perda. Vero. Comunque è impressionante come, per tornare al paragone con Berlusconi, io ho detto sta parola, ormai l'ho detta, basta, l'ho detta, sì, sta parola, succedono le stesse cose. Io Brianza mi perdo un po'. Pride. C'è un po' di Brianza Pride, secondo me. No, mi succedono le stesse cose, mi sono persa un attimo a leggere i messaggi, perché basta nominare Trump e arrivano i messaggi per cui siete contrari a Trump, Giacomo da Bergamo, siete ridicoli, chi non vota chi volete voi è poco istruito. Ma a me non me ne frega niente se vince Hillary o Trump di principio, però, capito, è come se parlarne fosse rompere un tabù. No, stiamo cercando di analizzare, non stiamo facendo il tipo per nessuno. Allora, però, ci scrivono anche una domanda che possiamo rivolgere. Guardate che se vince la Clinton ci sarà un impeachment. Peraltro impeachment per Clinton, sì, esatto. Ci sono un sacco di cose che tornano. Sentita. Trump l'ha anche detto direttamente. Ma secondo voi c'è questa, ha presa questo argomento che se vince la Clinton ha un po' di problemi per cui dopo succede qualcosa? Davide, no, Gianluca. Su questo siamo molto divisi. Oh, allora vai, Gianluca. Sentiamo. Allora, io ho una teoria molto molto semplice. Il direttore dell'FBI, tornando agli ultimi casi, che ha riaperto un'inchiesta senza, sì, avere nemmeno le carte in mano, è innanzitutto un repubblicano nominato da Obama. A mio parere ha semplicemente capito che facendo quelle mosse, quella mossa che ha fatto a 10 giorni dalle elezioni, se gli va bene vince Trump e resta al posto dove è. Sì. Perché con la Clinton rimuoverà tutte le nomine fatte da Obama, soprattutto, okay, soprattutto sulle agenzie. Non terrà praticamente nessuno, perché su quelle cose sono molto, divisi. E quindi lui ha semplicemente fatto questa mossa che non è necessaria, forse dovuta, ma non era dovuta, come ha detto anche Obama. Infatti poi c'è stata, stato, certo, piuttosto richiamato e molto piuttosto criticato pubblicamente. Ed è una, ed è una mia personale ipotesi che, come dire, la poltrona mi sta cara e di conseguenza se alla fine mi va bene vince Trump e io non me ne vado. Davide invece scuote la testa perché? Allora, come è repubblicano, ovvero ha lavorato con Rudy Giuliani, cioè l'ex sindaco di New York, una delle persone Trump, più in assoluto vicine a Trump, che lo ha difeso a spada tratta su qualsiasi cosa. È stato nominato da Obama perché il Senato deve approvare la nomina del direttore dell'FBI. Comey ha fatto quello che ha fatto per un motivo molto semplice, perché se non l'avesse detto lui e ci fosse stato un leak da parte di qualcuno dell'FBI, la notizia fosse uscito sui giornali, la notizia sarebbe stata: l'FBI sta indagando nuovamente Hillary Clinton, ma lo tiene nascosto. Il che significa che l'FBI diventa un ente politico che tutela qualcuno e va contro qualcun altro. Il che significa che l'FBI non ha più credibilità e l'FBI ne esce distrutta. Però facendo questo che ha fatto, l'ente risulta comunque aver preso una posizione politica. Lui, ma non l'FBI, che è una cosa ben diversa. Beh. Ma adesso? No, ma adesso comunque è inutile parlare di questi argomenti, perché tu fai delle analisi serie anche con due persone molto competenti che hanno due versioni diverse, ma il messaggio è: voi per caso sareste dei giornalisti? Sì, cerchiamo di essere obiettivi. La Clinton non è la Madonna e lo sappiamo bene, ma mica l'abbiamo detto, ma zero. Sostenitori di Hillary, è il radical chic imperante nei media italiani. Voi, però. No, allora però ragazzi, facciamo durante una cosa, il traffico mi stampo alzando la pressione, mandiamo diamo il le informazioni sul traffico perché per Benigni. Qua sono, esatto, perché sennò qua mi si alza la pressione, non va bene. Traffico. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Radio Tube. Adesso mi si è un po' abbassata la pressione. Che cosa hai scelto? Che cosa mi vuoi? Qualcosa per fartela tornare su la pressione. Allora sentiamo. Luciana. Allora sai, voi lo sapete, che insomma la maggior parte degli artisti di teatro, di cinema, di televisione, della musica in America hanno fatto le loro dichiarazioni di voto. Sì, Luciana, la stai prendendo da lontano, ma tanto lì arriviamo. E l'ha fatta anche Madonna, sì, la ciccone. Sì. La cicconona che... ha usato un paradosso. Che ha No. Luciana. Allora, che ha detto che a quelli che voteranno la Clinton... Luciana. Lei. Luciana, ascolta. Farà. Luciana, ascolta. Articolo indeterminativo maschile singolare. Un. Sì. Quanti vuoi che ne faccio? No, Luciana! Su. È una roba, tra l'altro, è una roba che fa lei artigianalmente. Sì. Che non è cantare anche Luciana, se. Luciana, basta! È una pratica erotica. Luciana, abbiamo capito, l'hanno letta tutti, basta. Una pratica erotica. Va bene, basta. Che a partire dalla tradizione orale, quelle cose. Allora c'è Daniele Bellasio che è imbarazzatissimo, perché quando io ho l'ansia quando si parla di referendum. Lui ha l'ansia quando si parla di sesso. Vabbè, non di sesso in generale, di Eros in generale, qua si parla di una pratica artigianale, si parla di cosa una che cosa dice? Che Madonna ha promesso. Come facciamo a dirlo senza dirlo? Allora, diciamo che... No, sai cosa facciamo? La chiamiamo come l'ha chiamata Clinton marito. Cioè una relazione impropria. Una relazione impropria. Mamma, che campagna elettorale. Vabbè. Raga, no, che ma è show, difficilissimo, è difficilissimo. Allora, un messaggio al 349-238-6666. Alessandro. Sì. Mi spiace per la mia pressione, Alessandro. Sì. Guarda, veramente io mi agito, ma infatti devo occuparmi di spettacoli, queste cose mi mettono ansia. Ma ogni volta che dei giornalisti dicono a chi vota e questo è soltanto il popolo povero e ignorante, offendono tutti quelli che non sono né poveri né ignoranti, ma in quella persona vedono una figura migliore del suo avversario. Sì. Cioè, praticamente, se uno vede Trump migliore di Hillary e si dice che i sondaggi dicono che una che viene più votato dalle fasce medio-basse, si offendono quelli che non lo so, peraltro non abbiamo detto questo, non solo questo e tante altre cose, però Trump si scrive con la U. Saluti Alessandro. No, anche perché Trump con la A è un'altra roba. Poi a me si alza la pressione, Bellasio e Viola. Allora, meno male sono malino l'inglese. Però allora, questo lo so. No, dai, ho bisogno di una presenza femminile, sì, ho bisogno di un'amica. Di un'amica che ci tenga un po' così. Costanza Rizza Casa d'Orsogna, attentissima osservatrice di fatti americani, ce l'abbiamo. Ciao Costanza. Ciao, buonasera. Allora, guarda, è stata una puntata difficilissima. Sì, tosta. Senti, guarda, veramente. Devo farmi. E poi arrivo io, sicuramente non ce la miglio. No, ci devi Costanza, invece aiutare. Che cosa sta succedendo nel tuo osservatorio? Come stiamo andando? Che film stiamo guardando? Allora, se vogliamo dirla seriamente, io mi ricordo che nel 94 ero in college, lavoravo come volontaria per questa cosa che si chiamava il Violence Against Women Act, che poi diventò una legge firmata da Bill Clinton nel settembre di quell'anno 94. Io non ricordo una violenza verbale ad oggi peggiore di quella che si è vista, insomma, in questa campagna. Certo, anche prima dicevamo una campagna elettorale non bella, diciamo così. Decisamente non bella, ma da tutti, nel senso che non è solo Trump che chiama Hillary tutto il tempo su Twitter Crooked Hillary, oppure anche Nasty Woman, no, che ha dato il via e là a una specie di nuovo slogan femminista, che tutte si sono chiamate Nasty Woman. Ma diciamo che la Clinton ha detto addirittura miserabili a chi vota Trump, per dire, per avere la par condicio, perché se sì. No, ma se no dicono che ricordiamo sempre solo le cose, appunto. Giustamente. Ma ci sono state anche cose come Newt Gingrich, per esempio, che l'altro giorno con Megyn Kelly della Fox News, lui l'ha bacchettata perché le ha detto che lei era affascinata di sesso, come se fosse lei la poveretta. Su Twitter lei non ne ha fatto una poveretta, ma si è quasi anche scusata e l'ha fatto con un Newt Gingrich che è stato 3 volte sposato e che ha servito le carte di divorzio alla moglie mentre aveva il cancro. Cioè, di che cosa stiamo parlando? È una campagna bruttissima, e sicuramente la più brutta ad oggi, però se volete invece una nota un attimo più leggera, tra virgolette, mm-hmm, allora possiamo dire di quello che sta succedendo tra donne e uomini in questa campagna. Pure, vero. Già si era parlato dello sciopero del sesso che le donne democratiche una facevano. Una listrata americana, bello. Finché non avesse visto Trump, finché non Trump non fosse stato sconfitto. Ma molto di più, Nate Silver, il sondaggista Nate Silver, ha tirato fuori come appunto questa campagna più che mai abbia segnato una divisione enorme. Non solo tra donne e uomini, che comunque c'è già stata in passato, ma questa campagna elettorale sta dividendo donne e uomini che sono sposati tra loro. Cioè, c'è da una parte il non esco con te perché voti Trump, cioè crea problemi proprio alle relazioni, ma anche all'interno dei matrimoni. Infatti, appunto, lui pochi giorni fa aveva pubblicato questa cosa, non pochi giorni fa, insomma, diciamo a metà ottobre, aveva pubblicato queste 2 mappe e come sarebbe cambiato il voto se votassero solo le donne o solo gli uomini. In pratica, se a votare fossero state solo le donne, avrebbero preso 458 voti elettorali dei grandi elettori contro soltanto 80 di Trump. Ah. È situazione molto diversa, però ben più equilibrata, se a votare fossero stati solo gli uomini. Grande, grazie Costanza. Facciamo una cosa, Costanza, siccome la il nostro dei tempo sessi esatto, è finito, noi ti chiamiamo durante la maratona elettorale, va bene? Ci fai compagnia? Sì, va bene. Ciao, grazie, Costanza. Grazie Costanza, grazie anche a Davide Burani, a Gianluca Di Tommaso. Grandi. Grazie per essere stato con grazie noi. A voi, concludo, a voi. Vabbè, ringraziando Roberta e ringraziando Matteo che sono stati con noi, concludo con un SMS. Vai. Daniele si imbarazza anche a parlare di Inter. Amala! Sabato prossimo.